Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Meteo FM. Chi vi parla dagli studi di Radio Città Fujiko è Claudia Mighty Mau, e in questa puntata speciale in cui possiamo usare il plurale, che non è più plurale maiestatis, ma siamo veramente in due. Sono infatti con Kyoto, la mia nuova compagna di vita, e vi do un consiglio: non programmate mai di fare una trasmissione radio come quelle che fa Mighty FM nella prima settimana in cui avete preso un cane. Detto questo, presentiamo la puntata della serata. È dedicata, per chi ha visto, ma siamo stati un po' parchi di informazioni, chi ha visto il nostro evento Facebook, si tratta di Christine and the Queens, che adesso si dovrebbe dire solo Chris, perché ha tolto un bel pezzo di nome, ma ne parleremo tanto in queste quasi due ore di trasmissione. Parleremo nello specifico di Chris, il nuovo album uscito il 21 settembre per la Because Music, e come succede sempre a Mighty FM partiamo con il pezzo che apre questo disco, che ha una particolarità: è uscito in formato doppio perché c'è una parte in francese, essendo Chris francofona e francese di Nantes, e un altro album in inglese. Ma partiamo appunto con il primo pezzo di apertura, che si chiama Comme si on s'aimait. C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms, dans mes graves articulés. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons, mais quand même cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche labée. C'est comme si ce n'est, tu me mets plus fort. Parte inglese di questo pezzo, di quasi tutti i pezzi contenuti in Chris. I titoli a volte cambiano, a volte no. Questa Comme si on s'aimait si chiama semplicemente Comme si, e come abbiamo scritto appunto sulla nostra presentazione della trasmissione, dopo un iniziale un po' resistenza, fastidio, perché insomma si sa come insomma gli italiani in particolare ce l'abbiano un po' con i francesi, un po' per il loro modo di essere un po' spocchiosi, un po' snob, un po' appunto il modo di parlare sempre con la bocca a culo di gallina. Dopo però una prima resistenza linguistica, ci siamo tuffati completamente, come è successo per esempio per Charlotte Gainsbourg, che stasera nomineremo molto, ci siamo buttati completamente in questo mondo di francofonia per sentire, abbracciare questo disco, questa artista, e abbiamo scelto infatti, a parte un caso, di mandare solo la versione del disco francese, francofona, essendo la sua autrice francese e francofona. Christine and the Queens. Yeah. sta finendo appunto il primo pezzo di apertura del disco. Stiamo ascoltando Halliday, perché bisogna sapere che la persona dietro questo progetto musicale è Héloïse Letissier, nata il 1 giugno 1988 a Nantes, e che riguarda in seguito ad una vicenda personale, sentimentale, nel 2010 è andata a Londra e, dopo ne parleremo più in dettaglio, ha deciso di darsi alla musica dopo una formazione virata alla letteratura, al teatro, alla composizione letteraria. Si è data appunto alla composizione musicale, e le sue prime manifestazioni in rete, che il suo canale sul nome di Christine and the Queens esiste dal 2010, sono appunto queste clip di 1, 2, 3 minuti in bianco e nero, a volte appunto di stampo surrealista, che mischiano musica e recitazione. E il primo pezzo è questa Halliday, che potete capire è una cover di Holiday di Madonna. Fine di Halliday, siamo passati a Be Freaky, che è un pezzo contenuto nel primo EP vero e proprio di Christine and the Queens. Si tratta di Misericordie EP, pubblicato nel 2011, in modo un EP autoprodotto. Questo pezzo si chiama Be Freaky, che è un po' una dichiarazione di intenti, un po' un inno, un po' un principio che si è, insomma, iscritta, quasi una missione, una dichiarazione di intenti di non seguire strade battute, di non essere, insomma, di non stare dentro la norma. Dancing with my queens, with my wounds to dry. Come dicevamo, nata a Nantes, anzi nella periferia sud-est, a Saint-Sébastien-sur-Loire, comincia a studiare pianoforte 4 anni, a dedicarsi alla danza classica 5 anni, poi alla danza modern jazz, nata in un milieu di, insomma, alto livello culturale, madre professoressa di francese e latino al liceo, padre docente universitario di letteratura inglese, ed è anche un bilinguismo molto molto naturale quello che contraddistingue l'operato, le pubblicazioni, la musica di Christine and the Queens. I suoi pezzi sono spesso in inglese, sono spesso in francese e in parte in inglese, per cui le è venuto sempre molto naturale di fare delle versioni in due lingue diverse, magari degli stessi pezzi, come ha fatto per il primo album e anche per questo ultimo, Chris, di cui parleremo stasera. Ma appunto, dicevo, di formazione musicale, artistica, letteraria, alle superiori sceglie l'indirizzo teatrale del liceo, poi frequenta il Conservatorio d'Arte Drammatica di Lione, che sì, conservatorio, ma con sezioni dedicate a musica, danza, teatro. E adesso Be Freaky si trasforma un po'. E il suo pezzo magicamente si trasforma in Mind Hair, Liza Minnelli, Cabaret. E finisce appunto come uno che canta nella sua cameretta sopra a un pezzo che le piace. Ma dicevo, la formazione scolastica non è solo al Conservatorio di Musica, Danza e Teatro, ma parallelamente frequenta anche la Scuola Normale Superiore di Lione, una delle principali 4 scuole normali, quindi quelle dedicate all'insegnamento superiore d'eccellenza, che forma poi i vari quadri dirigenti del paese a tutti i livelli. Ma nel 2010, in seguito ad una grandissima delusione d'amore, quindi a 22 anni, va in viaggio a Londra e fa conoscenza, la sua scheda di Wikipedia dice che proprio alloggia presso Madame Jojo's, famoso bar locale di cabaret di spettacoli interpretati da drag queen. E viene quindi spronata a tirarsi su, insomma, a fare qualcosa della sua vita. Ti piace cantare, ti piace la musica, e inizia il progetto di Christine and the Queens. Christine è lo pseudonimo, è il suo personaggio, sua persona, come si direbbe in inglese, che si crea, il suo alter ego. The Queens appunto è un omaggio alle regine, alle drag queen diventate sue amiche, consolatrici, un po' come le fatine buone, no? Che l'hanno un po' tirata su, e appunto decide di darsi alla musica. E infatti già dall'estate del 2010, che appunto lei molto convintamente si apre il suo canale YouTube, comincia a pubblicare quei piccoli brevi video in bianco e nero di cui dicevo, è molto illuminante vedere le informazioni su Christine and the Queen nel suo canale YouTube. Si dice: Christine propone le regole del gioco, sarà la figlia illegittima di Klaus Nomi e di Andy Kaufman, che appariva in smoking e con i capelli lunghi e spettinati. Difenderà solo i colori rumorosi di un gruppo fantastico e fantasmatico, Christine and the Queen. Comporrà solo canzoni senza orchestra, le canterà senza una band. La scommessa potrà sembrare rischiosa per gli uni, audace per gli altri, e lei dirà senza dubbio che tutto questo è tre freaky, molto freaky, come abbiamo appunto sentito la canzone Be Freaky, proprio uno statement. Quindi al comando, alla guida di un progetto musicale che mischia musica, performance, video, disegno e fotografia, Christine produce una musica pop elettronica che mischia l'intimo al ritmo. Scusate, sto traducendo simultaneamente, direttamente dal francese, che è la lingua che io ho studiato a scuola per 8 anni e dopo ho un po' rimosso. Ma alla creazione dei suoi primi lavori musicali, discografici, le sue ispirazioni sono Bowie e un mito della musica francofona, ovvero Mylène Farmer, che abbiamo sentito per tutto questo tempo in sottofondo con un pezzo che si chiamava Que Mon Coeur Lâche, un personaggio veramente molto molto curioso, praticamente la Madonna della francofonia. Ma siamo tornati a Chris, il disco appena uscito fine settembre di Chris ex Teen and the Queens, il primo singolo che è stato diffuso in anticipazione. Ne sono stati diffusi 4, tra appunto singoli, video, doppie versioni di video, versione inglese, versione francese. Il primo è questa Damn de moi, in inglese Girlfriend, che vede insomma un featuring abbastanza importante, quello del californiano Dame Funk. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. S'infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tap tap t'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachou. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de soir. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Trovo veramente un disco molto gradevole, molto fresco. Sarebbe dovuto uscire all'inizio dell'estate invece che alla fine dell'estate, ma vabbè, ci aiuterà insomma a passare quest'autunno inoltrato che sta volgendo in inverno in modo così allegro e solare. Continuando a raccontare le vicende di Eloise alias Christine, abbiamo ascoltato prima un pezzo Be Freaky tratto da Misericordie, che conteneva 5 tracce, tra cui Hit, poi contenuta nel primo album. Poi c'era anche una cover di Michael Jackson, una delle sue grandi ispirazioni sia nella musica che nella danza. Era Who Is It tratto da Dangerous nel 91. Poi nel 2012 pubblica un altro EP, invece pubblicato da un'etichetta francese, la Remark Music, e con altri 5 pezzi. L'EP si chiamava Mac Abbey. Nei pezzi contenuti c'è una versione, la versione originale di Christine, che poi è diventato uno dei pezzi principali del suo primo album Chalet Rumain, che poi uscì nel 2014 e che poi muta ancora, perché ovviamente avrà una sua controparte in inglese. E poi contiene questo Mac Abbey EP anche un pezzo Narcissus Is Back, che ritornerà anche in diverse altre pubblicazioni e che è il primo video ufficiale di Christine and the Queen, per cui l'immagine, il video, la performance, la danza, l'aspetto visuale è importantissimo. Infatti ha fatto tantissimi video che noi abbiamo un po' intasato la rete cercando di postarli tutti in questi giorni. So cut it open, cut it open so you could see through it. And now I'm lazy like dopo questo secondo EP arriva l'interesse della Because Music, che la scrittura. Come si può capire, la cifra di Christine è il retro, insomma, prendere tutto quello della tradizione pop francese, europea in generale, anglosassone, delle grandi stelle del pop americano, appunto come Madonna o Michael Jackson. Diceva, arriva l'interesse della Because Music, che è l'etichetta indie francese più importante, fondata nel 2015, pubblica tutte le release della Headbanger Records, quindi Cassius, Justice, Mr. Loiseau, Sebastian, e poi anche la Fantasy Sound di Harold Alkan, e poi anche l'etichetta di Charlotte Gainsbourg. Infatti tutte queste cose le avevo già dette nella trasmissione dedicata a Rest di Charlotte Gainsbourg, e quindi ricordiamo infatti il fatto di sapere, di poter vedere tra poco tempo. Charlotte mi ha fatto appunto entrare in questo trip francofono. Charlotte, lo ricordiamo, suonerà il 5 dicembre a Milano, e in apertura ci sarà la nostra Sofia Gallotti, ovvero Lim. Ah, poi sono anche artisti internazionali che pubblicano per la Because Music, come Django Django, con Mocassin, Metronomy, Major Lazer. E la prima pubblicazione per la Because Music è sempre un EP di 5 pezzi che esce nel 2012, sempre, e si tratta di Nuit 17 à 52, ovvero Notte 17 a 52, che era il pezzo che abbiamo ascoltato fino adesso e che adesso ha dato luogo ad un altro pezzo contenuto in questo EP, che è una cover. Quelqu'un m'a demandé juste hier après-midi si je me souvenais de toi. Il m'a montré toutes ses photos d'amis, et j'en ai vu trop de toi. Les clichés d'un week-end en Angleterre, quelques diapos d'un de nos anniversaires. Enfin je sais de quoi tout remuer, avec une envie folle de te retrouver et de te chercher partout. E la cosa che ha attirato l'attenzione nel mio orecchio è appunto sentire questa canzone che si chiama Photo Souvenir, dove c'è una lista di luoghi geografici, di città, di un po' di tutto il mondo. E dice anche Tokyo, Kyoto. E io, avendo appena accolto nella mia vita la piccola cagna Kyoto, l'ho voluto appunto, cioè mi è sembrato insomma un po' un segno, ma la cosa curiosa è che dopo Tokyo Kyoto questa canzone dice stronzo, cioè proprio stronzo. Ho cercato proprio il testo, si tratta di una cover del 75 di un cantautore francese che si chiamava William Scheller. Insomma, ci sembrava doveroso mettere, abbiamo appunto ascoltato due estratti dal terzo EP di Christine and the Queens, e il primo pubblicato per la Because Music, e adesso vabbè. Insomma, parlare di musica pop francese, poi di una musica pop francese che pesca a piene mani, ha sempre pescato a piene mani anche dalla tradizione musicale pop del proprio paese, ha portato a galla tanti ricordi d'infanzia, tanti pezzi di pop francese, non tanti, insomma quelli fondamentali, fondamentali un po' per tutti, siano cresciuti negli anni Ottanta. E questo è uno di quei pezzi che non passa, non passerà mai, ovvero i Bandolero con Paris Latino, l'unico pezzo quasi che hanno fatto dopo altri 3-4 singoli, ma neanche un album. Per chi lo volesse sapere, il gruppo era formato da Gilles Merme Bourezac e Les Perez Brothers, Carlos e José, quindi insomma questa cosa spagnola era reale, non era insomma una posa così perché faceva figo. Insomma, grandissimo, grandissimo successo questo pezzo che mischia funk, disco e rap, che era stato anche remixato da John Jellybean Benitez, cioè parliamo anche del primo fidanzato di Madonna, famoso DJ newyorkese. Era il periodo in cui appunto si faceva la musica così, che mischiava il primo hip hop di matrice newyorkese con questi ritmi G-Funk, e infatti anche lo stesso periodo di Last Night the DJ Saved My Life, per esempio, 1983. Bandolero shock, bandolero rock, bandolero shock, che bueno, che rico, che lindo, Paris Latino, che bueno, che rico, che lindo. Ma continuiamo a parlare della prolificità di Eloise Letizier, alias Christine and the Queens, alias Chris. L'EP Nuit 1752, poi questo pezzo è stato inserito nell'album di debutto, Chaleur Humaine, e poi, di cui poi è stata fatta una versione per il mercato americano col titolo Christine and the Queens, così appunto di presentazione al mercato americano. Perché insomma sono diversi pezzi che girano, vengono riproposti oppure in altre versioni, in altre lingue nel corso della discografia. Ma facciamo dei passi indietro. Parlavamo della passione per la composizione letteraria che l'ha sempre accompagnata, che inizia o comincia ad esprimersi quando Eloisa ha appena 11 anni e scrive il suo primo racconto. Scrive anche poesie, lavori teatrali, e i compagni di liceo le chiedono di scrivere le lettere d'amore per conto loro. E poi arriva la musica, che comincia a comporre come molti con un software, ovvero con GarageBand, e le influencer, abbiamo detto, Bowie e Mylène Farmer. E siamo arrivati ad uno dei pezzi, secondo me, più belli di questo disco, e che noi stiamo ascoltando in ordine di tracklist del disco, ma in realtà è uscito anche come quarto singolo prima dell'uscita dell'album. Si chiama La Marcheuse, che ha il suo corrispettivo inglese in The Walker. Abbiamo sempre postato i video nelle due versioni dove esistono, c'è un caso in cui l'ha fatto solo per la versione inglese. E da quel che capisco dai suoi testi, che non perché non capisca tanto il francese, ma perché è stata anche un po' criticata di fare dei testi un po' ermetici, ma secondo me parla abbastanza chiaramente di violenza domestica. Si nomina la violenza facile. È Natale a maggio, non ho bevuto niente, sotto al palazzo tu non hai visto niente, quando io avanzo furiosa. E sangue secco sulla mia pelle mi attira gli uccelli, le persone che sorridono di paura, per la paura che la mia malattia da boxer possa passare, possa contagiarli. Mi piace molto, anche perché appunto sono suoni rassicuranti, sono suoni conosciuti in tantissimi pezzi, anche le prime pubblicazioni ci sono almeno 3, 4, 5 citazioni di qualcosa, e dico sì, questo mi ricorda questo, ma anche fossero solo 2-3 note, sono proprio dei collage della musica pop degli ultimi 30 anni, 40 anni. Solitude, c'est parfait quand ça tape, il n'y a personne qui pleure. Fièvre au matin, nouveau. è una cosa che non ho detto prima, perché ho parlato sopra il pezzo di Mylène Farmer per dire altro. Innanzitutto ringrazio Elodie, perché me ne aveva parlato lei, l'avevo conosciuta grazie a lei, l'avevo conosciuta, me ne aveva parlato, diciamo che non è che io l'abbia ascoltata, ma forse le avevo io ho regalato un disco di Mylène Farmer, non mi ricordo, ma mi ha insomma fatto un paio di titoli e ho scelto quel pezzo che noi abbiamo ascoltato prima. E vorrei solo dire che dall'84 è la cantante che vende più dischi che ha venduto più dischi in Francia, insomma nell'ambito del pop franco-canadese, ha record di dischi di diamante, che è appunto una certificazione che va oltre al platino e che in Italia non esiste. Ha avuto 18 pezzi al primo posto nella top 50, quando tutti gli altri cantanti non ne hanno accumulati più di 6. E una cosa interessante è che dopo che nel 2012 ha ricevuto dalle mani di Jean-Paul Gaultier un premio alla carriera creato apposta per lei, Mylène Farmer ha chiesto di non essere più nominata per nessun premio, per lasciare posto alle nuove generazioni. E diciamo che Eloise, ovvero Christine Chris, ha proprio preso il testimone a tutti gli effetti. E abbiamo detto di come sia per cover, sia per danza, sia insomma per ispirazione musicale generale sia stato molto importante Michael Jackson, ma forse ancora di più la sorellina terribile Janet, che nel 97 ha fatto un capolavoro di album, The Velvet Rope. Musicalmente ci sono altri pezzi contenuti in questo The Velvet Rope che possono assomigliare di più a dei pezzi fatti da Christine and the Queens. Noi, vabbè, a parte il famoso pezzo singolo che poi era la cover di... Oddio, i lapsus. Di Joni Mitchell. Un altro singolo, e penso di avere appunto in entrambi i casi i CD singoli, era questa Together Again, che mi ricorda un sacco di cose. E siccome si sa che Mighty FM è autoreferenziale, noi attingiamo le nostre esperienze di vita, i nostri ricordi, i nostri gusti, soprattutto abbiamo scelto questo pezzo. Cover era quella di Got Till It's Gone, famosissimo pezzo di Joni Mitchell. Ma un album molto importante per Janet Jackson, e capisco che possa essere un album importante, un riferimento importante e empowering anche per una giovane artista come Eloise Letizier. Perché è un disco che nasce a seguito di un crollo nervoso, proprio un momento di grande crisi, di depressione, una depressione praticamente cronica, veniva da traumi infantili, traumi adolescenziali della famiglia Jackson, compresa anoressia e self-harm, adesso non mi viene, insomma, quando ci si fa male da soli. E quindi The Velvet Rope diventa un concept album che parla della depressione, parla dell'autostima, della violenza domestica, ma è anche un disco che parla tantissimo di sesso, di BDSM, di orientamento sessuale, di relazioni omosessuali. È per questo che questo disco Janet Jackson rinforza la sua immagine di sex symbol e anche quella di icona, mascotte anche della comunità gay. Ma dopo questo tributo a Janet Jackson, ritorniamo a Chris e quello che invece è stato il secondo video singolo in versione inglese e in versione francese a luglio è questa Doesn't Matter, tra parentesi Voleur de Soleil, ovvero non importa, ladro di sole, e invece il titolo inglese è semplicemente Doesn't Matter. Come dicevo, spesso i pezzi sono in tutte e due le lingue e questo mi ricorda anche, ma anche forse per motivi diversi, che anche Charlotte Gainsbourg in Rest ha fatto versi in francese e ritornelli in inglese per motivi che abbiamo spiegato lungamente nella trasmissione dedicata a, appunto, Rest, ma invece adesso stiamo parlando di Chris. La folie, surtout ce qui n'a pas su susciter tous les soirs le même affreux sourire renversé. Doesn't matter, does it? If I know. E poi per parlare dei rimandi citazionisti, l'inizio delle percussioni senza nient'altro mi ricorda molto l'inizio di Close to Me the Cure, e poi al 50° secondo arriva questo synth sotterraneo, mi ricorda un po' i Knife. Pezzo che fa riferimento ad una crisi esistenziale, è un pezzo scritto a tarda notte. Luis dice: questa canzone è una cattedrale con un ritmo inalterabile come la roccia. Appunto, torniamo alla nascita di questo progetto musicale. Dicevamo, nel 2010 Louise alloggia presso Madame Jojo's, famoso appunto locale di Soho, è stato chiuso nel 2014 dopo 50 anni, vittima anche lì della gentrificazione ulteriore, dico io, di Soho. Poi è stato riaperto nel 2016, poi è stato richiuso, poi è stato riaperto, pare di sì. E appunto viene un po' coccolata, consolata dalle queens della casa, tra cui c'era Rossella, detta anche The Fabulous Rossella, drag queen, attore, ballerino, modello, coreografo, cantante, comico, che tra l'altro in quello stesso 2010 lui, in quanto Rossella, era considerata da ID Magazine una delle 200 icone culturali, credo, del Regno Unito, amica e ispiratrice di Paloma Faith, la cantante pop abbastanza trash, direi, che possiamo vedere interpretare se stessa nella grande bellezza, uno stile che va da Dynasty e a Alexis Carrington, insomma, quel modello lì. Yeah. è un altro dei ricordi degli anni 80 della musica che ci arrivava dalla Francia. E penso che magari tutti conoscono questo pezzo, anche magari non si ricorda il nome, erano Le Rita Mitsuko, con questo pezzone e un'immagine e anche appunto un suono che secondo me è tra Siouxsie and the Benches e Ivan Cattaneo, perché poi gli anni erano quelli per tutti. Se comme ça, tratto dall'album dell'86, The No Comprendo. Et ça gêne quoi quand y a pas de plaisir. C'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dicevamo come Eloise sia stata insomma consolata e spronata a far qualcosa della sua vita, a uscire da quella depressione. Questa insomma deve essere stata una rottura veramente traumatica, vabbè, a 22 anni. E invece diciamo qualcosa su Le Rita Mitsuko, gruppo nato nel 79, in attività fino al 2007, formato da Catherine Ringer e Fred Chichin, e pare che appunto il nome della band dopo il loro incontro a Parigi nel 79 venga da il nome di un'amica d'infanzia di Catherine unito ad un nome di un piatto di un ristorante giapponese. E il grande successo appunto con questo pezzo Se Comme Ça arriva con il secondo album The No Comprendo. Siamo passati ad un altro pezzo di Chris, di questo è stato diffuso il video ad agosto nella sua versione inglese. La versione francese, questa si chiama 5 doll, cioè 5 dollari, slang, e ovviamente la versione inglese si chiama 5 dollars. E ho cercato di farmi degli appunti dei pezzi, che le citazioni musicali diciamo che mi vengono in mente ascoltando i pezzi Christine and the Queens. E ascoltate bene, M83, avessi dovuto mettere dei pezzi degli artisti che mi venivano in mente, facevo la trasmissione in 5 ore, e invece abbiamo preferito concentrarci sul grande pop francese degli anni 80, un po' trash, però che ha condito la nostra infanzia. J'ai bien moins baby blues, sang dans le bébé. J'ai mis le genou à terre, dis-moi donc ce que je dois faire. Tiens, jette-moi Saint-Dol, baby blues, sang dans le bébé. Quello che non abbiamo ancora detto, per chi conosce, non conosce Christine and the Queens, e la, insomma, genesi di questo Chris, è che in questi 4 anni, ma in realtà diciamo che è stata ferma forse meno di 2 anni in realtà, perché poi ci sono state reissues, tournée eccetera eccetera, c'è stato appunto un cambiamento anche esistenziale, taglio di capelli, look androgino, un atteggiamento di sfida contro i ruoli precostituiti, insomma gender fluid eccetera eccetera, come un po' tante artiste nella musica stanno facendo. Abbiamo visto appunto proprio l'altro ieri Anna Calvi con il suo Hunter, proprio dichiarato in modo veramente positivamente aggressivo, insomma questa impostazione appunto di libertà sessuale, di non essere inchiodati ai ruoli di genere. Poi anche un altro riferimento musicale a questo pezzo che mi è venuto un po' in mente erano un po' i Churches. Ma siamo arrivati al debutto col primo album nel 2014 con Chaleur Humaine. Tanti video, tanti singoli, tanti bei pezzi a partire da questo primo Saint-Claude. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, à mes solitudes immenses. Per esempio, a me questo pezzo ricorda tantissimo, beh, rallentato, eccetera, eccetera, ma The World Song, The Culture Club, per esempio. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. And if you say just one word, I stay with you. E poi invece questi gorgheggi alla Cocteau. Kiss my station. Kiss my station. Che poi tra l'altro Saint-Claude, che poi citeremo molte altre volte tra un po', era stato già pubblicato in uno dei primi EP col titolo di Cripple, e poi anzi no, sto sbagliando tutto, è Christine che poi ha cambiato nome, che è questa che stiamo ascoltando tra l'altro. Ma è vero che parleremo ancora di Saint-Claude per altri motivi, e abbiamo fatto un'eccezione perché appunto nel 2015 esce la versione internazionale, in realtà la versione solo per il mercato americano, perché era già ben conosciuto Chaleur Humaine, anche entrato nelle classifiche, ha venduto tanti dischi anche in Gran Bretagna. Appunto esce la versione per il mercato americano dell'album, e questo pezzo Christine diventa Tilted, e questo è l'unico caso in cui appunto ho scelto di mettere la versione inglese, perché nella mia testa mi era rimasta questa, ascoltando invece quella francese non mi sconfinferava molto. Questo tipo, non so, la butto lì, propaganda, gruppo tedesco. It's getting hard to look away. E questi sono i pezzi di Chalet Humain che abbiamo deciso di mixare come sempre noi in casa, senza cuffia, senza preascolto, senza mixer, senza console, solo così a sentimento. Quindi abbiamo ascoltato Saint Claude, poi abbiamo ascoltato la versione inglese di Christine, ovvero Tilted. Il pezzo che stiamo ascoltando è la famosa Narcissus Is Back, pubblicata già nei primi EP, il primo video anche ufficiale come Christine and the Queens. Quest'ultimo pezzo è Paradis Perdu, che potrebbe suonare come una canzone di Lick e Lee. In realtà è una canzone, anche questa, credo degli anni 70, musica fatta da Christophe, e le parole, uno si aspetterebbe la musica, invece no, le parole di Jean-Michel Jarre. Non poteva bastare questo, infatti nella sua versione Eloise ci aggiunge il ritornello di Heartless di Kanye West. Sì, pezzo del 73. Ah, dicevamo dell'influenza fondamentale dell'incontro con queste queens londinesi che appunto l'hanno indirizzata verso la strada che fortunatamente, che poi è un'artista veramente completa, performance, teatro, danza e musica, i pezzi comunque li scrive tutti lei. E dopo questo mix dei pezzi che abbiamo scelto di Chalet Humain, torniamo a Chris con un pezzo che si chiama Goya Soda, che in realtà soda, ma in realtà qui all'inizio si dice sodade, sodade. Le reconnaît la façon qu'il a de plaire. Toujours le premier. Come si può sentire, se Chalet Humain era molto un misto tra electropop, un po' tutte le prepubblicazioni, e il genere chanson, che è un genere specifico della musica, anche se ci sono pezzi calmi, pezzi lenti, questo Chris è molto più electrofunk, potremmo dire G-funk. C'est comme aimer la nuit, le Dieu qui s'enfuit. Hey, Goya, soda, soda d'un vrai. J'ai cru avoir appris. Goya, soda. Riferimenti musicali, Robin. È il pezzo che volevo oggi telefonare a Giovanni per dirgli come si chiama quel pezzo di Robin che fa così, perché non avevo tempo di ascoltarmi tutto Body Talk. E poi questo è che mi ricorda un pezzo degli anni 80, ho chiesto anche Alberto, un pezzo che faceva più che forse appunto era pop, ma un pop alto, comunque un pezzo pop di successo, però fatto da qualcuno che comunque non era, insomma, un artista, insomma, di livello. Ma sono solo miei viaggioni. Che perché appunto questo pezzo contiene tante altre cose, ma fino alla fine sento dei suoni. Tipo il pianoforte che arriva verso la fine. Ditemi voi cosa vi ricorda. Ma parlando ancora dell'incontro di Eloise con le drag queen, ho trovato nelle mie ricerche un articolo del New Statesman dove appunto in base a, cioè, l'intervista fatta a Eloise viene mischiata con l'intervista fatta proprio a Rossella, dove la giornalista dice a Rossella che Eloise ha dichiarato che è stato lui che le ha insegnato come essere donna, ad essere donna. Jamais à moi, il ne sera jamais à moi. Trop jeune, trop rapide, trop capricieux pour moi. Coup de pinceau, les chers sont dévorés. Adesso quando ritorna la percussione mi piace molto. Et mes 17 ans ressemblaient à ce tableau de Goya. E questo synth sotto. Qui a quel prix et qui mange quoi? Cioè, è stato proprio preso da qualcosa. E comunque Rossella dice: è molto interessante perché io non considero i vestiti, le gonne o i tacchi, sono queste cose che fanno una donna. Penso che quello che in cui noi possiamo aver ispirato Eloise era proprio la libertà di esprimere se stessa con tutta appunto come voleva, con tutta la libertà, perché appunto essere una drag queen è la fine proprio estrema del comportamento inaccettabile, perché essenzialmente è punk rock, e questo ce l'ha insegnato anche John Cameron Mitchell. Ecco, lo stavo andando a cercare, Hedwig and the Angry Inch. Io, ovvero noi, che la nostra giuria del 2001 a Berlino per il TED Award gli abbiamo dato il premio come miglior film a tematica LGBT, perché appunto era un film molto rock, molto punk rock, anche se si parlava di una travestita mezza transessuale, mezza appunto per colpa del Angry Inch. E finisce Goya Soda in queste note di pianoforte sospese. Allora, per chi le conosce, queste prime note farebbero pensare a I'm Not a Blonde e a Peter Parker, ma poi cambia completamente e diventa Notorious dei Duran Duran. Ovviamente questo citazionismo io non lo reputo assolutamente un difetto, questo rende ancora più godevole l'ascolto ripetuto proprio di questo disco. E questo pezzo qua si chiama Fogliarse, che parla, insomma, direi che vede una butch a Los Angeles, insomma ci prova e dice: ma una donna qua cosa deve fare per trombare, insomma, diciamolo. Cosa deve fare per venire? Deve pagare? Mm. invece cos'è che deve fare una donna qua? Di che cosa hai paura? Perché ho bisogno di capire cos'è che deve fare una donna. Nessuno fuck come si dovrebbe scopare. Ok, appunto, unapologetically sexually aggressive. Come anche nel primo pezzo, Girlfriend, il primo singolo, quello con Dan Funk, è proprio una celebrazione dell'audacia, dell'aggressività, insomma, anche sessuale, comunicare la propria eccitazione, il proprio stato di eccitazione. Poi tipo questo bridge mi ricorda qualcosa di Robin sempre, ma generalmente appunto c'è un bel riff da un pezzo da clubbing. Mentre il primo pezzo di apertura dell'album, Comme si on s'aimait, è un riferimento all'album sempre di Christophe, che lei aveva già coverato con la Paradis Perdu che abbiamo sentito prima. Dicevamo prima che per dedicarsi alla musica Eloise ha abbandonato la scuola normale superiore a metà del secondo anno, torna sia appunto in Francia, si fa dei tatuaggi sui polsi con la scritta da una parte We accept you e dall'altra One of us, comincia a farsi conoscere, appunto pubblica i primi due EP, poi comincia a essere chiamata per aprire ai concerti di Lick Lee, The Deux, Woodkid, con performance tipo la Laurie Anderson che mischiano teatro, danza, canto. E appunto l'uscita poi del debutto dell'album Chalet Humain le fa guadagnare un grande apprezzamento sia da parte della critica che da parte del pubblico. Viene certificato l'album disco di diamante. E in questo 2014 viene nominata, ma non lo vince, per il premio come miglior rivelazione, vinto appunto da Woodkid nel 2014, per il premio che è praticamente l'equivalente dei Grammy, ovvero si chiamano Victoire de la Musique, e l'equivalente in Francia di quello che è il César nel cinema o il Molière nel teatro. Viene solo nominata nel 2014, ma ovviamente dopo, i premi vengono conferiti a febbraio, l'album esce a giugno del 2014, poi esce la versione internazionale esce dopo, però ovviamente il disco esce a giugno, quindi i premi nel 2015 vengono dati sempre a febbraio e lì vince proprio come miglior interprete femminile. E è l'unica che ha 5 nomination in 5 categorie diverse, ma lo diremo dopo. Ma perché lo stiamo dicendo questo adesso? Perché cosa stiamo ascoltando? Per rimanere nel pop francese, un pezzo che io avevo pensato di mettere in scaletta per la trasmissione su Charlotte Gainsbourg, perché è uno dei duetti che lei ha fatto con un'icona pop, il padrino del pop francese, ovvero Étienne Dao. Per questo pezzo del 2003 dell'album che si chiamava Révolution, il pezzo si chiama If. La cosa interessante è che appunto Eloise, Christine and the Queens, vince come migliore interprete femminile nel 2015. Allora sono andata a vedere, ma chi l'ha vinto nel 2018? Ovviamente l'ha vinto Charlotte Gainsbourg e coincidenza, Victoire d'honneur, ovvero premio alla carriera, è stato dato a Etienne Dao sempre nel 2018, e questo l'ho scoperto l'altro ieri, giorni dopo aver già deciso stavolta invece di metterla in scaletta, questo duetto, sempre questi momenti di serendipità legati a Mighty FM. Le soleil droit sur leur beau contour, fièrement là il souffle court, pour qui reviennent ces heures de parcours. E questo è sempre un pezzo di Chris, un pezzo dei più belli, si chiama Machine Shoes. Et dessous ma peau la grêle, comme les pensées qu'on démêle. Recréation au fond de la cour. Poi magari c'è chi preferisce magari la versione inglese di questi pezzi. Lei invece di fare come prima, che ha fatto prima un album in francese, poi ha fatto l'edizione americana, questo adesso l'ha messo insieme, proprio CD1, CD2, vinile 1, vinile 2. Ci sono delle note di piano all'inizio del ritornello, forse di un pezzo dei Cure più vecchi, più dark, mentre proprio tre note tre all'inizio del ritornello, mi ricordo le prime tre note di Ain't No Sunshine When You're Gone di Bill Withers, ma è appunto un problema mio. L'enfant qui s'en va écrire, c'est pour ça que je ne peux venir, et c'est pour ça que je ne peux venir, car elle savait cet attrait. E tornando a Rossella, perché questa intervista è molto interessante, perché appunto dire che essere drag queen è proprio il massimo del comportamento inaccettabile, perché appunto è molto punk rock, e dice: forse la mia espressione, l'espressione della mia femminilità, il mio tipo di femminilità le ha dato libertà per sperimentare con la sua mascolinità, o il mio esempio estremo di femminilità le ha dato un po', insomma, una gamma di dove si poteva piazzare lei in termini appunto della propria essere donna. E probabilmente deve aver capito che non sono i tacchi e i capelli che fanno una donna. Bello che lo dica una drag queen. E poi ritornando all'intervista invece a Eloise, dice che appunto lei non è rimasta in contatto con le regine che tanto l'avevano ispirata. Eloise disse sì, potrebbe suonare un po' crudele, un po' senza cuore, ma io non ho mai cercato di rincontrarle. Tipo, ho anche registrato l'album a Londra, quindi l'avrei potuto fare. Invece mi sentivo come un personaggio in un racconto, in un romanzo. È stata una cosa così intensa, molto veloce, molto drammatica, e adesso sarebbe veramente strano, insomma, rivederle, un po' imbarazzante. ovviamente il fatto di essere cresciuta con la famiglia in cui è cresciuta l'ha anche un po' data un sacco di libertà comunque di partenza, genitori molto curiosi, molto aperti, molto tolleranti. Quando lei era adolescente, il padre ha dato a Eloise i libri di Judith Butler, giusto così per dire. Anche la madre aveva capito che, insomma, prima che lo dicesse lei, insomma, era ragazzina che era 17enne, insomma, che era innamorata di una ragazza. Sospirone. Can you lay your hand on my forehead? Through darkest night. Can you handle darkest night? At the crack of dawn, I am ashamed. Oh, se non conoscete questa canzone, magari avete riconosciuto la voce di Mike Hadrias, ovvero Perfume Genius. Perché la versione per il mercato americano di Shelley Hyman, ovvero Christine and the Queens, contiene alcuni pezzi uguali a Shelley Hyman, alcuni in versione inglese, appunto la succitata Christine che diventa Tilted, che è poi il singolo trainante per il mercato americano, e alcuni mancano e alcuni vi sono stati aggiunti. Alcune sono appunto tracce recuperate dei primi EP, e altri, forse questo è l'unico caso di questa meravigliosa new entry, ovvero di questo duetto bellissimo e bellissimo video anche, commovente, non il video, la canzone, con Perfume Genius, che appunto non potevamo non sentire ancora nonostante l'avessimo già ascoltata nella puntata dedicata a Perfume Genius un anno e mezzo fa. A parlare del suo tipo di femminilità, la sua libertà conquistata di essere come si è, una volta si è lamentata con la rivista Elle perché aveva photoshoppato la sua foto nella copertina e le ha sentito come se fosse stata una violenza il fatto che avessero cancellato le sue imperfezioni. En silicone, ta ta ta, peu de pied, à que cabron. Pointe au ciel, excitée, elle voudrait qu'il fasse pareil. Pourvu qu'il bande en réaction et qu'on entend la détonation. E siamo invece ritornati a Chris, e questo invece è un'eccezione, come Jonathan è stata un'eccezione rispetto a Shelley Hyman, nel senso che le due versioni di Chris, la versione francofona e la versione anglofona, non sono identiche. Ci sono due pezzi in francese che non figurano nell'edizione inglese. Non sapete il mal di testa, la confusione, quante mille volte controlli incrociati per queste cose qua. sono due pezzi in francese che non sono l'edizione inglese, mentre c'è un pezzo dell'edizione inglese che non ha la sua controparte in francese. Quindi, ricominciando, quello che stiamo ascoltando, Bruce è dans le brouillard, ovvero Bruce è nella nebbia, è il pezzo che è solo in francese, nella versione francese. Plus vraiment sûr de ce qu'il peut vouloir. Quella intervista dove era stata anche intervistata la Sella, e Louise racconta che quando è uscito Chez la Rue Man in Francia, la gente ha detto: ah, sei una brava femminista, porti vestiti da uomo, non sei oscena, non sei volgare. E lei dice: e io ho pensato, dammi un po' di tempo per avere una vita sessuale e poi vedrai se non sono oscena, perché non ci sono modi buoni di essere una donna e quindi una femminista. E infatti lei nel 2015 si dichiara bisessuale. Tra l'altro l'album viene dedicato a Océane Marie Rose, adesso dopo apro la pagina, una attrice, una comica più che altro, un comedienne dichiaratamente lesbica, che ha fatto appunto anche uno spettacolo teatrale che si chiamava La Lesbica Invisibile, che adesso ha transizionato e niente, si chiama Océane, ma ha assunto appunto ormoni e l'identità maschile. Finisce questo Bruce dans le brouillard e io avevo già pensato di metterci questo pezzo che sta iniziando adesso, perché è stato uno dei pezzi fondamentali del pop francese, fanno parte della raccolta dei miei 45 giri di quando ero piccola. Manco un po' l'andazzo del pezzo, poi ho pensato, sì, Bruce è nella nebbia, ci sono diversi pezzi che poi fanno riferimento a navi, a capitani, a ciurme, eccetera, quindi non potevo non mettere Cargo di Axel Bauer, sempre Magico 83. Cioè, e io li compravo nell'83, quando uscivano, quindi a 12 anni impazzivo per sto pezzo. On vient de débarquer. Cargo de Suisse. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. La nuit de Suisse change de port. Cargo de nuit. J'avance sur ce quai humide. La sueur brûle comme l'acide. L'enfer va commencer. Cargo de nuit. Guerre chaude. Primo singolo, primo successo, grande successo di Axel Bauer nel 83. Un autore, cantautore, musicista ancora in attività. L'alcol è mon allié, l'amour è il fondo. Ma è molto famoso, insomma, si è impresso nella nostra memoria la sua immagine e il video soprattutto. Cargo de nuit. video che strizzava tantissimo l'occhionino a Karel de Brest di Fassbinder, aveva tutta questa allure veramente omoerotica, un video girato dal fotografo famosissimo Jean-Baptiste Mondino, e anche dei riferimenti a Kenneth Anger, dei riferimenti a Rassi Selvaggio, Rainbow Fish. E lui dice che, insomma, visto che è un po' popolare tra i gay, lui è anche un po' fatto credere, insomma, per motivi commerciali, di essere omosessuale, Axel. E rimanendo nel discorso dell'identità sessuale o di genere, ovviamente essendo cresciuta con Jodie Butler, Eloise, insomma, abbraccia ovviamente il concetto di fluidità di genere, dice se fossi adolescente adesso sarei molto più estrema in termini di gender bending, perché io ci ho messo un po' di tempo per osare mettere in discussione la mia femmininità, e se invece io fossi stata più giovane adesso sarebbe successo prima. Cioè, questo è il primo passo, ma ho un po' paura che diventi un trend, perché sì, è molto trendy vedere persone transgender sulle copertine di una rivista di moda, ma poi le vere persone transgender come se la passano? E poi dice: a volte sento di essere trendy. Quando è uscito l'album in Francia 2 anni fa, la gente mi aveva consigliato di non dire di essere pansessuale, cosa che poi ha dichiarato nel 2016, perché non faceva bene alle vendite. Invece adesso tutti dicono: possiamo parlarne, perché è diventato, insomma, molto trendy. E dopo Bruce e dalle Brouillard siamo tornate a Chris, e siccome che Bruce era il nono pezzo dell'edizione francese, guarda caso il nono pezzo dell'edizione inglese è quello che esiste solo in inglese, ovvero questa Feel So Good. Qui nel cantato sembra Michael Jackson, non ci avevo fatto caso. Ma tantissimo. What if the politics was just an idea of fun? I'd be scared as one should, but it still feels so good. What if the firstborn, he didn't even have a name? What if the obvious is suddenly so insane? Ma per finire il discorso sulle Victoires de la Musique, il premio, lei nel 2015, quindi quando, insomma, il disco era uscito da sette mesi, insomma, aveva fatto il botto, è stata nominata per 5 categorie, 2 vinte, una l'abbiamo detta, invece questo, peccato che ci ha parlato sopra, ma era, ve lo giuro, A View to a Kill dei Duran Duran. Le altre nomination era, e più appunto, più nomination di qualsiasi altro artista: miglior album de chanson, ovvero pop, perché come per il Grammy esistono altre categorie, cioè miglior album rock, musica urbana, world music, elettronica, eccetera. Poi era nominata come miglior spettacolo musicale o tournée, miglior canzone originale, ovvero Saint Claude, e migliore interprete femminile, che ha vinto. E l'altro premio vinto, ovvero la quinta nomination, era come video dell'anno, sempre per Saint Claude, quindi non ha vinto come miglior canzone, ma ha vinto come miglior video e casca a fagiolo perché nel video che c'è solo uno sfondo rosso, una specie di enorme parallelepipedo rosso su sfondo rosso, dove Eloise balla esattamente con tutte le mosse, tutte le coreografie, tutti proprio i trademark di Michael Jackson, non necessariamente a ritmo con la canzone, che invece è piuttosto lenta, e vince quindi come miglior video dell'anno. Tra l'altro lei è una ballerina veramente fantastica, quindi il concerto non è un concerto ma è proprio uno spettacolo, sono tanti ballerini. L'ultima cosa che ho postato sulla pagina Facebook per ricordare insomma stasera della trasmissione è questo clip molto breve che ha postato credo ieri relativo appunto alle sue date di tour. Adesso tipo il 20 e il 21 ho fatto due date alla Polo di Londra, sold out. Due date a Londra, poi Irlanda, Francia, finisce la tournée prima di Natale a Parigi e poi riprenderà a marzo del 2019 Queen's Tour in Australia, e speriamo che arrivi anche in Italia. Sicuramente si farà tutti i festival estivi. Insomma, vedere questo breve clip ci ha veramente fatto venire voglia di vederla dal vivo. Ma siamo passate all'unica pubblicazione successiva a Chalet Humain / Christine and the Queen, ovvero un altro EP del 2015 dal titolo Intranquillité, ovvero irrequietezza. E il coro dice De Sasso Sego e o e o, no, De Sasso Sego, che è un riferimento appunto al libro dell'inquietudine di Pessoa, che era un pezzo che già faceva sempre dal vivo dal 2014, poi nel 2015 viene pubblicato in questo EP. In realtà si tratta di una pubblicazione per il Record Store Day, che non ce la possono fare, i francesi dicono Disquaire Day, ovvero il giorno del disca, non neanche del negozio di dischi, ma di colui che lavora nel negozio di dischi o ha un negozio di dischi. Era una versione, un doppio 7 pollici, edizione limitata numerata in 1000 copie, che conteneva anche Science Fiction tratto da Chalet Humain, che contiene un incomprensibile ritornello in italiano, io ci ho provato ad ascoltarlo ma non ho capito niente, Paradis Perdu e Amazoniac, che era già stato pubblicato in altri EP e che è una cover sempre del 1983 di un cantante francese, Yves Simon. Ovviamente dopo l'uscita del disco, anche nel 2015, tournée, anche in apertura dei concerti francesi di Stromae. E finisce Intranquillité e torniamo a Chris, dove c'è questo pezzo che si chiama Le J, che lei dice cos'è che manca? Manca lo snare, ma mancano anche le ragazze. Le J, secondo me, così a naso, parla del punto G, e è il secondo pezzo che esiste solo nella versione francese. J'ai le jean autant déplaise ma gueule, mais avec je prends même mes plaies de boxeur pour qu'on les touche. J'ai le jean autant déplaise ma gueule, et avec les sirènes ça casserait en deux pour ma pleine bouche. Je prends tout, pezzo super funk. Insomma, io la conoscevo di nome, avevo sentito qualche pezzo, ma non mi ero mai dedicata tanto all'ascolto del primo album, Shadow Man, che invece, insomma, aveva fatto un sacco di successo nel resto d'Europa. Forse era questo, ma cavolo che ha usato lo stesso suono. Questo era anche Beauty Kill di Duran Duran. Oltre a questa chitarrina alla Nile Rodgers. E quindi ci colleghiamo, se non ci avevo pensato, ci colleghiamo a Duran Duran, ovvero a Power Station. Dicevamo, Shirley Romano ha fatto un sacco di successo comunque. Cioè, in Francia arriva al secondo posto, come anche in Scozia. E nelle classifiche della Gran Bretagna, in tre classifiche diverse: UK Album Charts, Independent Album Breakers Charts e Sales Album Charts. Ma invece arriva al primo posto nella classifica UK Independent Album Charts, e poi al primo posto anche in Irlanda, nel Belgio Vallone, ovvero francofono, al quinto posto nel Belgio Fiammingo, al settimo in Svizzera, insomma. E poi le certificazioni: diamante in Francia, oro in Gran Bretagna, platino in Svizzera. E quindi, insomma, anche questa facilità di comporre in due lingue, cioè, magari non è stato solo bieco marketing. Poi vabbè, tutti gli artisti europei vogliono sfondare negli Stati Uniti, soprattutto se hai appunto una facilità con la lingua, puoi fare canzoni in lingua essendo credibile e non sei britannico, che già quello facilita. Insomma, hanno fatto la versione per il mercato americano che abbiamo ultra citato. E solo con quel primo album Christine and the Queens è diventata una delle artiste francofone che ha più venduto nel mondo. Poi viene tratto un ultimo singolo video contenuto in entrambe le versioni, che è in entrambi i casi il pezzo di chiusura del disco. Si tratta di Here, con un featuring con Booba, un veterano della scena rap parigina di origini franco-marocchine e senegalesi. Nel febbraio 16, diciamo proprio l'ultimo fuoco, e poi la generazione di Chris, del disco e del personaggio. Cioè, chiamare l'album Chris è come appunto fare uno statement pubblico che dice: ok, adesso non mi chiamo più Christine and the Queens, mi chiamo Chris. Però ovviamente, visto che Christine and the Queens era già conosciuta, l'hanno pubblicato con questo, con questo ancora nome, pseudonimo. Però per far capire bene la questione, nei vari social hanno diffuso questa immagine dove c'è la scritta Christine and the Queens con la parte del resto del nome barrata, quindi la parte Tine and the Queens barrata, lasciando appunto in bella evidenza Chris. E siamo arrivate cronologicamente finalmente alla genesi, insomma, di Chris, che abbiamo ascoltato quasi completamente, e siamo arrivate al punto in cui nella playlist magicamente c'è finalmente Dame Funk. Stiamo ascoltando un mix di due pezzi, il primo Breakout, che adesso sta si sta passando all'altro. Breakout, tratto da Architecture, EP del 2017, seguito poi nel 2018 da Architecture 2, da cui invece adesso sta iniziando Bounce. Punk, ovvero Damon Garrett Riddick, nato il 15 giugno 71, quindi un po' più piccolo di me, Charlotte. Produttore, musicista di Pasadena, in attività da più di 10 anni, e ha fatto tante collaborazioni, tanti featuring. Addirittura qui su Wikipedia vedete che nella lista degli Associated X c'è anche Ariel Pink. E comunque Dame Funk, che è poi l'unico e anche piuttosto importante featuring presente in Chris. E quindi questo cambio di identità, cambio di nome, un atto politico e non di marketing, insomma un desiderio di sfuggire alle definizioni, ricordare ed affermare che l'identità è complessa, multipla, mutevole, fluida. Quindi capello corto, look androgeno anche nei video, molto l'immaginario anche del... È stata anche accusata di plagio anche per dei suoni dei pezzi, ma lei dice: io uso Logic e ci sono dei loop che non sono protetti da copyright, quindi è un modo come un altro di fare musica. È lo stesso modo, credo, per il video di $5 è stata accusata di plagio, perché c'è un riferimento a un corto di Ruby Rose, Seno fasciato, scena della doccia, eccetera eccetera. Ma anche se fosse, des odeurs d'artificier, même si personne ne se laisse aimer. E siamo tornate al penultimo pezzo di Chris, è uno dei pezzi più lenti e malinconici e classiconi, un po' strappamutanda. D'altra parte si chiama Les yeux mouillés, ovvero gli occhi bagnati. E da questo momento in poi del ritornello, cioè questo pezzo del ritornello è la Pausi. Cioè, Laura Pausini fatta e finita, e ci piace. Réclamer plus forte d'être dévisagée quand aux yeux mouillés. Che parla proprio del desiderio di un amore grande, travolgente, cui ogni giorno non assomiglia l'altro. Quindi Chris è proprio un manifesto, questa nuova immagine che ridefinisce una femminilità oppressa, che mette in discussione, virgolette, una società machista e fallocentrica, è grazie al suddetto, appunto, lo diciamo con simpatia. Quindi un album, è venuto in mente, un album talmente retro da essere terribilmente attuale. E tutti magari scrivono, ma insomma, perché metti dei pezzi poi francese e non metti il top? Infatti lo volevo mettere all'inizio di Scaletta, poi ho detto no, vabbè, lo sbatto così alla fine. E ho fatto anche un post relativo alla scheda di Wikipedia dedicata a Lio, che è veramente incredibile le cose che ha fatto, anche se è sposata con uno che lo menava, è diventata una paladina insomma, contro la violenza domestica, addirittura grande sostenitrice delle femen, addirittura cantato pochissimo tempo fa a Sieno Scoperto. Ho scoperto anche una cosa che non sapevo, e che si chiama Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, nato a Mangualde in Portogallo. La madre stava con uno che militare che aveva fatto la guerra in Mozambico, quindi le terribili guerre coloniali degli anni 70, le guerre d'ultramar del Portogallo, e scappa con il suo amante musicologo, scappa dal Portogallo, anzi non per scappare dal marito, per scappare da suo padre. Ecco, avevo letto male, cioè praticamente aveva fatto, stava con questo amante musicologo, scappa nel 68 dal Portogallo per sfuggire al padre militare, e nasce Lio. Anche un'altra cosa che non sapevo, che Amore Solitaire è una cover di Lonely Lovers, di un gruppo proto-punk francese che si chiamavano Stinky Toys. Però incredibilmente non sono riuscita a trovare la versione originale di Lonely Lovers. Insomma, non poteva assolutamente mancare Lio. Comunque dicevamo prima che dopo l'uscita di alcuni pezzi di Chris e anche appunto del video di $5 sono state delle accuse di plagio. Lei dice: io uso Logic Pro, ci sono dei loop che non sono protetti da copyright, il 95% dei rapper oggi usano delle canzoni conosciute. Dice: almeno tre pezzi di Rihanna sono costruiti sulla base di loop di questo software, quindi non ho assolutamente plagiato, è solo un modo come un altro di comporre musica. E tra l'altro su questi loop io ci ho aggiunto i testi, la melodia, gli arrangiamenti, E dice, beh, certo, quando Gainsbourg prendeva le melodie di Chopin, non è che gli dicevano che plagiava. E quindi diciamo che si era un po' presa, perché cioè, ha considerato questa cosa come una forma di sessismo, dicendo che questi attacchi probabilmente sono legati al fatto che lei è una donna, autrice e produttrice, che secondo lei insomma gli uomini invece sono ammirati e rispettati quando raggiungono il successo, mentre se le donne raggiungono il successo subito si sospetta che non siano loro le vere autrici delle loro composizioni, oppure appunto accusate di essere autoritarie, cattive e capricciose, ovvero stronze, diciamolo. E è così. E anche per quanto riguarda s'accusa di plagio di $5, ho detto in francese, sì, $5, che ricorda il cortometraggio di Ruby Rose, e dice che in realtà l'idea le era venuta invece da American Gigolo. A questo punto uno ci attaccherebbe la seconda parte, il ritornello di Vieni vieni con me, ovvero Andamento lento, in questo caso molto lento, di The Piscopo, no? Comunque non arriviamo al momento delle critiche, perché non ci sto dentro, però posso dire che su Metacritic ha ottenuto una media dell'89, ovvero quasi 9 su 25 critiche, recensioni. Questo ultimo pezzo, siamo arrivati alla fine, che chiude l'album, si chiama L'étranger, tra parentesi, voleur d'eau, come doesn't matter era ladro di sole, questo è ladro di acqua. E dico solo per le recensioni che questo album ha ottenuto 5-10 dal Guardian, DIY Magazine, dal Telegraph, dal New Musical Express, dall'Independent. Poi 29.1 da Consequence of Sound e da DAV Club. 3.9 da All Music, Clash Music e The Line of Best Fit. 12.8, sembra che sto dicendo appunto l'estrazione dell'8, da Under the Radar, Spin, Musical Image, Slant Magazine, Drowning Sound, Observer. Poi vabbè, le testate sono sempre quelle: Rolling Stone, Boston Globe, The Skinny, Mojo e Uncut e Q, che danno sempre gli stessi voti, tra l'altro. 7.9 Pitchfork e alla fine 2.7 di Pop Matters Exclaim, un disco da ascoltare più volte, molto fresco, molto bello. Ciao da Claudia Mighty Mau e da Chris.